Come si è arrivati intanto a questa situazione? Ma credo che nessuno l'abbia capito, io per il primo che mai mi sarei aspettato che non vi fosse praticamente resistenza da parte dell'esercito afghano. Quello che riusciamo a capire in queste ore è, uno, che i talebani avevano organizzato una rete, diciamo, nascosta, di cui l'intelligence occidentale non si è resa conto, già presumibilmente anche con accordi con alcune cittadine, in modo che l'avanzata fosse rapida e per certi versi anche incruenta, perché si è combattuto ma relativamente poco rispetto alla guerra che ci si immaginava. Poi ci sono voci però anche confermate da persone autorevoli che dicono che i soldati erano senza stipendio da mesi, qualcuno mi ha detto addirittura da un anno. Questo significa truppe già demotivate, su cui non c'è stato solo l'effetto psicologico di un'avanzata rapidissima, ma c'era il fatto che non avevano il loro salario. Quindi combattere per cosa? Per chi? Per qualcuno che non ti paga neanche quello che è giusto avere. La domanda è: ma di tutto questo le truppe occidentali che sono rimaste 20 anni a fare la formazione di questo esercito non si erano resi conto, non lo sapevano, si accontentavano dei report scritti senza controllare? Insomma, sembra che ci sia stata una gestione come minimo maldestra e superficiale, tant'è che tutti, il governo afghano per primo, è rimasto sorpreso dalla velocità di arrivo dei talebani. L'anno scorso c'era stato questo accordo di Doha, ma insomma non era servito a nulla. Ma l'accordo di Doha i talebani non lo hanno rispettato, perché avrebbero dovuto fermarsi, come dire, negoziare un cessate il fuoco. L'errore principale è stato quello di tagliare fuori il governo afghano, tra virgolette legittimo, dai negoziati di pace. È chiaro che nel momento in cui il governo afghano è stato abbandonato dagli alleati, i talebani hanno detto: diamogli la spallata finale. E così è successo, il presidente è fuggito e adesso, se le voci che si rincorrono nella capitale sono vere, si sta trattando tra il numero 2 Abdullah Abdullah, il vecchio presidente, Karzai, il ministro dell'interno, per questa sorta di governo di transizione, che però sarà semplicemente, come dire, un passaggio di potere ai talebani. Quali sono ora gli scenari, le prospettive per l'Afghanistan? Preferisco non pronunciarmi, dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà. I talebani dovranno anche fare i conti con l'isolamento internazionale, non possono contare solamente sul Pakistan o su qualche piccolo paese del Golfo, e quindi bisogna vedere cosa accadrà nei prossimi giorni, se vincerà, come dire, la linea politica, continueranno a comandare anche gli uomini del terreno, quelli che hanno preso le città.